una strana espressione nei tuoi occhi. Vogliono dirmi che non mi ami più. Vogliono dirmi che non mi vuoi più bene. Mi fanno già capire che io ti perderò. Com'è strana stasera la tua voce. Mi sta dicendo che non ho più il tuo amore. Mi sta dicendo che tu non vuoi parlarmi più. Mi fa capire che io ti perderò. Così semplicemente la fiamma è spenta, il nostro amor non vive più. E nei tuoi occhi io vedo quel che non sai dire.